Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Da dove viene la forza per arrivare alla fine della corsa? Affrontiamo l'ultimo miglio, quello più difficile, non solo per chi corre una maratona. In questo periodo dell'anno siamo tutti un po' maratoneti, dobbiamo correre nonostante la stanchezza, ci sono progetti da chiudere, scadenze da rispettare, risultati da portare a casa. Allora, puntata dedicata a chi volente o nolente deve fare centro e quindi sa che deve resistere anche quando sarebbe più facile mollare. E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano? Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare? La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta. Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E qui non finisce. Perché quando il gioco si fa duro... i duri cominciano a giocare. E qui in studio con me per allenare la nostra resistenza il professor Stefano Tirelli. Una grande esperienza nella preparazione atletica e mentale di atleti del calibro di Del Piero, John Terry, docente di tecniche complementari all'Università Cattolica, disciplina che coniuga le scienze motorie occidentali e le tecniche naturali orientali, che è ben raccontata nel libro intitolato per l'appunto Tecniche complementari sportive. Professor Tirelli, bentornato. Grazie, buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. A proposito di complementarietà, per raggiungere un risultato sportivo, ma anche direi un risultato lavorativo, dobbiamo riuscire a far lavorare insieme soma e psiche, muscoli e cervello. Questa è la strada, da qui non si scappa. No, non si scappa, perché se è vero che il corpo è la nostra macchina, è altrettanto vero, come ben sappiamo, che la mente è il nostro driver, il nostro autista. E quindi io potrei avere anche una eccezionale macchina appena uscita, sfornata da una bellissima carrozzeria e quant'altro, ma se non ho un guidatore capace di portarla in giro potrei creare addirittura danni. E quindi, così come il funzionamento metabolico dell'organismo ci insegna che ci sono delle tappe da seguire per poter realizzare un funzionamento da un punto di vista proprio fisico, così sappiamo anche che la parte mentale prevede degli step che possono coniugarsi bene con lo stesso corpo e viceversa. Il medico mi ha controllato, mi ha fatto tutte le analisi e mi ha tranquillizzato. Mi ha detto, dice, lo vede, l'elettroencefalogramma è piatto. Ah, vabbè, meno male, almeno questo. Però, a quanto pare, nell'attack si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? No, non è che sono dottore, non lo so. Che dice che addirittura che è una cosa che io ho da quando ero piccolo, da quando la nascita. E tu non l'hai mai saputo? Ma se non mi ha dato mai fastidio, come me ne accorgevo? E che ti ha detto? Che cosa si può fare? Mi ha detto, dice, guardi, la situazione è delicata, ma non è grave. Perché non si può operare? No, niente. Dice, il problema è che praticamente, dice, per ora è così. Se si blocca così piccolo, dice, non ci sono problemi. Può essere che, ingrandendosi, lei addirittura se ne può andare in sovrappensiero. E in linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, ben ritrovata. Allora, per le performance sportive, per quelle più squisitamente intellettuali, la strada sembra essere identica. D'altronde ai muscoli e al cervello si chiedono le stesse cose: forza, resistenza, prontezza e, aggiungerei, scatto. Sì, noi chiediamo al muscolo e al cervello le stesse cose, perché in fondo non sono in antitesi, ma, udite udite, cervello e muscolo sono un binomio. Proviamo a spiegarlo. Il muscolo fa stare bene il cervello. È straordinario pensare, e questo è verissimo, che il muscolo, l'attività muscolare, lo sport per esempio, induce nel cervello le alterazioni dell'innamoramento. Salgono a dismisura la dopamina, quindi sensazione euforica, le endorfine, il benessere, la serotonina, il buon umore, e si attivano le aree delle emozioni, della gratificazione e anche del ricordo. Quindi questo è un effetto nutriente dell'attività muscolare sul cervello, ma non è tutto. Il muscolo fa stare bene il cervello e la mente perché ne fa aumentare il volume. Il lobo frontale e l'ippocampo sono parti molto importanti del nostro ragionamento e del nostro comportamento, aumentano microscopicamente di volume perché aumentano i fattori di crescita nervosa. Meno 34% di rischio di demenza nell'adulto che pratichi l'attività sportiva, quindi che muova i muscoli più di 3 volte a settimana rispetto a chi la faccia meno di 3 volte a settimana, e scusate se poco. E spesso, professore, noi diciamo che il cervello è un muscolo e l'idea di poterlo allenare proprio come facciamo con gli altri muscoli per mantenerlo in forma ci piace, e d'altronde risponde anche a verità. È vero, la riabilitazione è basata su questo, la neuroplasticità, le connessioni del sistema nervoso sono indotte con una metodica simile all'allenamento, quindi al reclutamento delle fibre muscolari, alla loro ipertrofia e iperplasia. Ma il muscolo allena il cervello, questo forse pochi lo sanno. Quando facciamo fare sport ai nostri bambini, ai nostri giovani, aumenta il volume di una zona cruciale del cervello che è chiamata nucleo della base, per cui i bambini non saranno più coordinati solamente, saranno anche più ometti, perché quella struttura controlla bene il comportamento, l'apprendimento, l'emotività e gli aspetti cognitivi. E addirittura i nostri bot, la nostra riserva cognitiva, i nostri titoli a cui attingere da vecchi, dipende dall'attività sportiva, quindi da come muoviamo i nostri muscoli, tra i 15 e i 25 anni, meno 28% di rischio di decadimento cognitivo. Quindi alleniamo il cervello allenando i muscoli. E poi per avere il contrario, il cervello è in grado di allenare il muscolo. Quando si sente dire grande lucidità in area di rigore di Balotelli, che fa scoccare quel tiro fortissimo, perché essendo molto concentrato lui aveva preattivato un circuito chiamato circuito gamma che fa essere più reattivo il tiro, e quindi il gol era perché non solo lui è bravo ma era anche molto in partita e il cervello l'aiutava. Quindi, professore, le ricerche contraddicono lo stereotipo tutto muscoli niente cervello, ma mi chiedevo, questo è vero anche nell'anziano? Ci si chiede come può un anziano sviluppare il cervello tramite la parte muscolare, insomma nell'anziano i muscoli calano, ma in realtà è vero proprio che anche nell'anziano un'attività muscolare, in questo caso aerobica, non stressante, ma per esempio si dimostra che 45 minuti ogni volta, 3 volte a settimana, in soggetti dai 60 anni, quindi giovanissimi ormai, a 85 anni, dopo 6 mesi, un anno, si dimostra un aumento di volume della sostanza grigia e bianca in alcune aree strategiche come il lobo frontale, di cui abbiamo già parlato, e l'ippocampo. Insomma, il movimento fisico come miglior antidoto della badante. Ma non è tutto, ci sono anche degli studi molto affascinanti che dimostrano come l'attività sportiva, quindi ancora come il muscolo, possa avere un effetto sugli iniziali disturbi di memoria, proprio perché viene attivato il fattore di crescita nervosa. Quindi gli anziani, senza sprecarsi in esercizi violenti, possono con l'attività aerobica, camminare è fondamentale, migliorare sensibilmente le proprie condizioni neurologiche. Professore, noi sappiamo bene, per esperienza diretta, che quando siamo stanchi di testa è facile avvertire anche una stanchezza diffusa a livello muscolare e articolare, ma credo che questo funzioni anche al contrario. È la cosiddetta sindrome da superallenamento. Chi frequenti palestre o centri sportivi vede a volte degli zombie viventi, lasciatemi passare questo termine, persone che sono talmente concentrate da diventare deconcentrate. In questo caso il sovrallenamento del muscolo, cioè il danneggiamento, permettetemi un termine non corretto, della propria attività fisica muscolare, può comportare aspetti pseudodepressivi. In realtà è come se il nutrimento venisse bruciato dai muscoli e non dal cervello, questo in estrema sintesi, e si attivasse troppo il circuito dello stress. Qual è il consiglio? Noi diamoci un obiettivo, sia un obiettivo psicologico o un obiettivo fisico, così non ci sarà più un'antitesi ma un binomio, insomma, psiche, quindi muscolo-cervello. Però spesso, anzi quando otteniamo uno di questi obiettivi fisici, migliora anche quello di origine invece più probabilmente psicologica. Mettiamo però un obiettivo raggiungibile, se spostiamo il target troppo in là, roviniamo l'una e l'altra delle due componenti così importanti per il nostro benessere. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E voi su quale obiettivo vi state concentrando? Qual è la vostra meta e su quale forza state puntando per fare centro? Raccontateci un po' la vostra strategia. Quella che farà centro con il professor Tirelli riceverà a casa Sugar Box, una beauty box con le novità della cosmesi per il nostro benessere. Ma professor Tirelli, vogliamo declinare un po' la nostra richiesta quando parliamo di ricetta per fare centro? Quali ingredienti possiamo mettere? Ma direi che in una situazione di definizione di obiettivo, come diceva prima il professor Barbanti, senz'altro dobbiamo includere qualche piccola strategia che ci possa consentire di attivare quelle onde alfa nostre cerebrali, che sono le migliori per poter cercare di realizzare quelli che sono i nostri pensieri, quindi di renderli un po' realtà. Ci sono persone che preferiscono per esempio concentrarsi con la musica, li vediamo sia nelle piste d'atletica prima di una partita di calcio con questa musica che tende a incentivare una certa performance. Ci sono persone che utilizzano ovviamente musica classica, mantra. Il mantra è una cosa molto importante, tra l'altro, perché proprio è generalmente una sorta di armonizzazione di onde cerebrali che vengono appunto stimolate da queste musiche cicliche e che sono proprio le principali deputate all'attivazione di onde alfa. Noi sappiamo brevemente, no, che abbiamo questi tipi di onde, le beta, che sono quelle nelle quali il nostro cervello con una frequenza molto veloce agisce laddove dobbiamo essere vigili, guidare, parlare con le persone. Momento di una meditazione, di una contemplazione, il momento di una visualizzazione di cui parleremo, invece si attivano principalmente queste onde molto più lente, molto più dolci, per poi andare invece in quelle teta e delta, che sono quelle del sonno più profonde. Però le onde alfa sono quelle che sono preposte proprio alla capacità di creare, di visualizzare, di progettare. E poi ci sono altre situazioni come per esempio la respirazione. Una respirazione profonda anch'essa induce l'attivazione di queste onde cerebrali alfa. E poi delle immagini. Quindi nella vostra ricetta per fare centro potete raccontarci i vostri segreti: musica, immagine, pensieri positivi, esperienze precedenti, motivazione. Il professor Barbanti sottolineava, cerchiamo di fissare degli obiettivi che siano realizzabili, perché sennò tutta questa energia va persa. 800 24 0024. Professore, noi cerchiamo di farci dare la ricetta dai nostri ascoltatori, la strategia che utilizzano quando si sentono particolarmente stanchi, quando sono all'ultimo miglio ma devono arrivare alla meta. Ma possiamo anche chiedere ai nostri ascoltatori di raccontarci a che punto del percorso sono e quali sono le energie che sentono mancanti, perché con il suo aiuto e con l'aiuto di tanti esperti cercheremo di aiutarli a scegliere la strada giusta. Ed arrivare oltre la linea del traguardo, che è quella, è l'obiettivo principale. Oh. Principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore. Professore, a proposito di ostacoli, nell'attesa che i nostri ascoltatori ci raccontino quello che si preparano a saltare e a superare, impariamo ad analizzarli, perché questo è il primo passo per trasformarle da ostacolo, da limite, da difficoltà in occasione, in risorsa. Beh, per esempio nelle tecniche complementari sportive c'è una parte, come si diceva all'inizio, importante rispetto alle tecniche orientali. Sì. L'ideogramma cinese della parola crisi è formato da due simboli. Uno significa pericolo e l'altro significa opportunità. Allora, questo in sé, proprio in una situazione generale come stiamo vivendo, sia nei nostri obiettivi a breve, medio, lungo termine, ma anche in una situazione di vita abbastanza difficile che stiamo appunto vivendo tutti quanti, direi che è importante andare su quella parte di opportunità che la crisi ci può indurre. La crisi è anche la crisi sportiva, il momento in cui non riesco ad arrivare all'ostacolo finale, è la crisi lavorativa, so che ho progettato, ho visualizzato, ho fatto tutto quanto per una promozione, per riuscire ad entrare in un certo progetto e mi sembra che tutto stia crollando. La visualizzazione che io tenderei in questo caso ovviamente a suggerire, ed è quella che faccio con i miei atleti sportivi, ma anche non atleti, perché ovviamente lo sport è metafora della vita e cerchiamo di prendere da questo degli insegnamenti importanti. Immaginiamoci per esempio l'atleta che fa i 110 ostacoli. La prima cosa che vede una volta che è sul blocco di partenza non è certo la linea d'arrivo, vede solo una fila di ostacoli che in prospettiva sono sempre più lontani. Allora lui parte allo sparo e inizia ad andare a correre, a saltare il primo ostacolo, e man mano i muscoli fanno fatica perché poi salto l'altro ostacolo ancora, e non finiscono mai, diventano sempre più lontani. L'unica cosa che io sento è che man mano che vado le gambe diventeranno sempre un pochino più deboli. Se io non visualizzo, non capisco e non cerco di entrare in quella sensazione di gioia, di felicità, di euforia che avrò quando, una volta in cui avrò oltrepassato il traguardo, non riesco. Allora noi dobbiamo, nel momento di difficoltà, non fermarci all'osservazione dell'ostacolo, ma pensare, capire, vedere quello che sarà la parte positiva, bello, del raggiungimento. È quello, è come gettare l'amo e sapere che io devo andare avanti. Non posso soffermarmi solo sull'osservazione del pericolo. Io devo andare nell'opportunità, la creatività. E questo funziona nello sport come nella vita. Sì. 800 24 00 24, proviamo a saltare gli ostacoli insieme, e una risorsa per saltarli può essere la musica. Molti sportivi si allenano ascoltando musica e i musicisti si allenano facendo sport. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Maurizio Baglini, pianista con la passione della corsa. Ciao Maurizio, bentornato. Sì, ciao, salve a tutti, buongiorno. È vero, sì, io diciamo che uso lo sport per fare meglio il mio lavoro, che è quello del musicista, ma vedo che le cose sono complementari. È vero. Quanto ti aiuta? Ah, tantissimo. Innanzitutto perché il pianista solista, diciamo, che è quello che faccio io nella musica classica, poi quindi repertori spesso di lunghezze così sconfinate, insomma, cioè un concerto può durare anche più di 2 ore, aiuta tantissimo per la memoria. Cioè da quando, io ho sempre fatto sport, ma quando ho deciso poi di preparare delle maratone, quindi su distanze, insomma, superiori ai 40 chilometri, ci si allena in un altro modo, e la capacità di apprendimento di repertorio sempre nuovo, di concentrazione durante i concerti è esponenzialmente più elevata. Quindi in questo senso mi aiuta, e mi aiuta anche ad affrontare molto meglio la paura che normalmente, per forza di cose, abbiamo tutti, no? L'artista comunque si mette in una situazione innaturale, perché sei da solo su un palco davanti a 2000 persone, lo stress, l'adrenalina, tutte queste cose che fanno parte della vita del musicista vengono comunque coadiuvate in senso positivo da un'attività sportiva frequente. Insomma, io in questi giorni mi sono ritagliato una piccola vacanza, ma non rinuncio certo alle mie ore di corsa, insomma, di piacere proprio, ecco. E quindi devo dire che sì, questo lo posso dire a tutti i colleghi, incoraggio insomma tutti a seguire una vita sana e soprattutto a fare sport, senza per forza la concezione agonistica della prestazione, ma proprio per un vero piacere e benessere. Se posso al limite intervenire, certo, completando l'interessantissimo intervento di Maurizio Baglini, quel fatto di momento di ansia, no? In cui ci si trova proprio nel momento prima della prestazione, in questo caso suonando il piano, ma potrebbe essere di fronte ad un colloquio di lavoro importante, potrebbe essere di fronte ad un progetto professionale o di vita importante. Cioè, io voglio vincere la mia sfida e voglio vincere la mia ansia e la mia paura, e così anche nello sport ovviamente è possibile. Io devo visualizzare, immaginare ad esempio quella che è la figura di uno sciatore, in cui al momento del blocco di partenza, se ha un'ansia positiva, è un'ansia che è posta dietro le spalle e che gli darà ancora più forza per scendere a valle fino al traguardo più velocemente. Quando diventa troppa, quando quest'ansia invece va a bloccare lo stomaco e davanti è un freno. Allora si può gestire sicuramente con degli esercizi particolari, però il messaggio che io vorrei veramente dire è che tutti quanti noi in quel momento di prestazione di fronte al pubblico, di fronte al capo ufficio, all'imprenditore, alla persona cara a cui dobbiamo dire cose importanti, si può vincere. 800 24 00 24 Maurizio, noi sappiamo che molti sportivi ascoltano musica e tu che sei un musicista prendi energia sicuramente dei brani musicali intanto che corri, nel caso mi piacerebbe che tu ci regalassi una tua playlist. Maurizio, vorrei che raccontassi tu questo brano che noi abbiamo preso dal tuo CD Rev, è uno studio numero 6 da Paganini. Sì, di Franz Liszt, che porta un dualismo storico, no? Nel senso, Niccolò Paganini, si dice, la leggenda dice, avesse fatto il patto col diavolo perché, tra l'altro, questa cosa poi gli negò la sepoltura in terra consacrata cristiana, insomma, quindi era una diceria consolidata, perché era talmente bravo e virtuoso al violino che si riteneva che fossero disumane, quindi sovrumane, insomma, le capacità muscolari e violinistiche di Paganini. E Franz Liszt ha voluto rivaleggiare da pianista, quindi trascrivendo molte opere di Paganini dal violino e trasportandole poi sul pianoforte, per dimostrare appunto quello che era il virtuosismo, no? Che nel virtuosismo, che è un concetto molto vasto per noi pianisti, vengono riuniti poi molti fattori, muscolare, mnemonico, di concentrazione, creatività, perché poi il virtuosismo è anche atmosfera, colore, comunicativa, ma è ovvio che in uno studio come questo, il numero 6 dei grandi studi appunto da Paganini e di Liszt, si devono mettere insieme una marea di riflessi, insomma, e di doti anche atletiche, e in questo senso credo che il pianista che è sano e che fa una vita sana e che si concentra e che fa anche sport poi abbia risultati migliori, insomma. Io non voglio poi, per carità, banalizzare la musica al mero virtuosismo ginnico, però oh, certo, è ovvio che è un fattore importante, insomma. Senti, ma tu da pianista ad uno sportivo, che sì, quali suggerimenti daresti? Beh, intanto possibilmente io ho sfruttato anche le maratone che faccio, insomma, da sempre per promuovere la musica classica, e quindi dico agli sportivi magari di ascoltare nell'iPod, così, mentre corrono, mentre si allenano, non soltanto musica isocronica, tecno, dove c'è la batteria che fa da ritmo, ma magari ascoltare, no, con tutto il rispetto, io ascolto tutto, fra l'altro, sì, però voglio dire, ascoltare per esempio una bellissima sinfonia di Beethoven come la Pastorale, la numero 6, dà un impatto con la natura, con lo sforzo fisico estremamente più redditizio, ecco. E si scoprono poi delle continuità fra il paesaggio, no? Un connubio fra la bellezza paesaggistica, insomma, del correre all'aria aperta e una musica che fa parte del patrimonio dell'umanità. Quindi Beethoven sicuramente, in generale lo suggerisco perché è il maestro del ritmo, quindi tutte le 9 sinfonie hanno già una playlist che dura diverse ore, sono 5 CD, insomma. Sì, quindi insomma si può correre, se ne fa tanta di strada, se no? Altro che maratone, ultramaratone. Poi, ecco, direi di ascoltare magari possibilmente anche molto Mozart, che è il musicista per antonomasia più geniale, più completo nella storia della musica, perché ha dato spazio a tutti i generi musicali. E poi così, io per esempio da anni ho anche creato un festival che si chiama Miata Piano Festival, dove porto proprio la musica classica in mezzo ai vigneti, in alta maremma, insomma, nella natura, e cerco di incoraggiare i miei colleghi nelle ore di pausa a venire a fare sport con me. E loro e cosa quindi, fanno? E loro, vengono. Alcuni lo fanno, alcuni e lo altri? Fanno magari... Io ho preso una compagna violoncellista, Silvia Chiesa, con la quale suoniamo spesso insieme. Lei non corre, ma mi viene dietro con la bicicletta, quindi da quando poi ho aumentato i ritmi di corsa, però sono riuscito a farle fare tanti chilometri, insomma. Certo. Senti, che... quando si tiene questo incontro nell'Alta Maremma? Allora avviene, si parte il 19 luglio. Quindi tra poco. È prossimo, comunque vabbè, posso... già che c'è questa occasione citare, ci sono tutti i dettagli, che si va avanti fino a agosto, è www.amiatapianofestival.com, e quindi lì si coniugano musica classica, sapori enogastronomici importanti e anche sport per chi vuole, che non è nel palinsesto musicale. Però aiuta, io, sì, bello. Sì, aiuta. Grazie. Anche a suonare meglio, questo... questo lo dico ci soprattutto piace. Ai miei colleghi, perché poi gli sportivi hanno un senso di civismo e di apertura mentale decisamente più alta rispetto a spesso purtroppo ai musicisti che fanno musica classica, che sono un po' troppo ritagliati nel proprio mondo, insomma. Invece è un incoraggiamento importante, dico, lo sport fa bene indipendentemente poi dalle prestazioni che si hanno, ecco. Grazie Maurizio. Grazie a voi per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata. Buon proseguimento. Grazie. Abbiamo Roberto da Milano e Carlo da Cremona. Roberto, buongiorno. Buongiorno, sono Uberto, ma non c'è problema, mi confondono facilmente. Sì. Ormai la trasmissione è andata un po' più avanti. Quando parlavate, spero di non essere troppo fuori tema, quando parlavate della concentrazione con lo sport. Sì. Ecco, io faccio degli allenamenti con i master di nuoto, dove molto, molto, sono molto intensi e io faccio molta, molta fatica. Lo dico sinceramente, anche se mi piace tantissimo e mi aiuta proprio per resistere alla settimana di lavoro. Comunque, sì. Io dalle 5 del pomeriggio in avanti, spero di, le ripeto di non essere fuori tema, sono stravolto, cioè perdo veramente la concentrazione, anche quella, diciamo, base, sì, durante le ore di lavoro. Immagino che sia il fatto che l'intensità è veramente alta, però ecco, volevo chiedere, uno, se c'è qualche soluzione, non per avere più prestazione, ma per avere un recupero migliore, e proprio avere la testa un attimino, perché il corpo stanco, pazienza, sì, ma la testa un certo, attimino più presente. Diventa un po' difficile, più difficile da gestire. E poi abbiamo Carlo da Cremona. Intanto il professor Tirelli si è segnato tutto: la stanchezza dopo un allenamento molto intenso, stanchezza muscolare, ma il nostro amico ci dice pazienza, ma anche di testa. Carlo da Cremona, buongiorno. Buongiorno. Eccola. Allora, niente, io confermo che quello che state dicendo è pura verità, perché io ho 53 anni e sono un ex giocatore di basket, sì, nel senso che non faccio più professionista. Sì. Però gioco ancora in un campionato minore di promozione e praticamente io faccio esattamente quello che facevo quando avevo 20 anni, certamente non con quell'intensità, però mi alleno tutti i giorni e posso garantire che le persone che si allenano tutti i giorni, adesso fino ad oggi, hanno delle reazioni totalmente diverse a quelle che non fanno assolutamente niente, nulla, che fanno poco. E una cosa velocissima, secondo me il ministro, quello che ha detto allo sport, dovrebbe fare una legge per istituire la ginnastica obbligatoria in tutte le scuole, 3 ore alla settimana. È fatta bene. Per tirare su le persone, i ragazzi che sono tutti svogliati e messi male. Perché dal muscolo, abbiamo detto, parte dall'allenamento muscolare, in arriva... Più, sì? In più, fra 20 anni avremmo delle spese farmaceutiche naturalmente inferiori a quello che abbiamo solitamente, perché non abbiamo gente che... Assolutamente. Carlo, concordo assolutamente con lei, anche il professor Tirelli. Immagino, professore, due situazioni. Carlo ci conferma quanto noi stiamo raccontando con l'aiuto dei nostri esperti. Per quanto riguarda invece il nostro ascoltatore, affiancato, sfinito da un allenamento, è un discorso che possiamo anche traslare nella vita lavorativa. Sì, infatti ci riallacciamo al concetto di overtraining. Overtraining nello sport è il sovrallenamento. Poi nella vita abbiamo anche dei momenti in cui stiamo consumando eccessive energie rispetto a quello che è il quid, è il serbatoio veramente pieno che abbiamo nell'ambito della nostra quotidianità. Allora, una cosa interessante, tra l'altro, potrebbe essere interessante: alle 5 del pomeriggio e subentrano delle situazioni di energie derivanti proprio dall'attivazione renale nella medicina cinese. Sì. I reni sono visti come serbatoi di energia. E tra le 15 e le 17, quando c'è un calo energetico, è uno dei sintomi proprio di depauperamento di queste energie, di serbatoi. Allora, in questo caso dobbiamo riallacciarci al discorso, per esempio, integratori dico naturali e sani, idrosalinici, perché in quel caso per la stanchezza muscolare ne avremo sicuramente bisogno, perché siamo connessi al discorso renale. Per quanto riguarda la stanchezza mentale, siamo connessi a un discorso invece di ricarica del sonno. Il sonno è fondamentale. Allora, anche nella vita, nel momento in cui sento che sto dando eccessivamente, io devo ritirarmi un attimo, non sono più un sole splendente, allora è inutile che cerco di espormi. Mi ritraggo, mi riporto nella mia parte di oscurità, che è buona, che è di risorsa, di rigenerazione, quando so che posso essere un nuovo sole, risplendo, quindi dopo aver dormito. Per quanto riguarda Carlo, direi che i due fattori che animano sia lo sport che la vita nell'ambito proprio del sociale, dell'attività professionale, sono la passione e la motivazione. Senza questi due fattori, a 53 anni non si può avere la stessa capacità, la stessa grinta che ci porta ad avere le stesse prestazioni di quando avevamo 20 anni. E lo stesse sul lavoro. 800 24 00 24, se volete un aiuto a individuare la strada per fare centro. 800 24 00 24, se volete suggerirci la vostra strategia. Il professor Tirelli sceglierà la formula che più corretta, più equilibrata, che coniughi quindi il benessere mentale e il benessere fisico, muscolare. Quindi aspettiamo le vostre telefonate, le vostre proposte, le vostre richieste, magari d'aiuto. 800 24 00 24. Patrizio, buongiorno, benvenuto, ci chiama da Vicenza. Grazie, buongiorno e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Niente, volevo semplicemente dare la mia testimonianza. Io sono un imprenditore e comunque ogni giorno faccio sport, lo faccio da quando ero molto piccolo. Ultimamente mi sono dato al ciclismo, sono circa 4 anni, e mi sono accorto che mi aiuta più che mai. Il ciclismo è uno sport molto difficile, molto faticoso. Sì. E lo paragono moltissimo all'impegno che ogni giorno abbiamo noi imprenditori. E sono concordo con gli altri ascoltatori quando dicono che lo sport aiuta tantissimo. A me personalmente non riesco a farne a meno. Ogni giorno mi rendo conto che solo facendo sport mi aiuta con il mio benessere fisico e soprattutto psicologico. E infatti si dice che facendo attività sportive nascono, magari in bicicletta durante una camminata o una corsa, anche immagino nuotando, tac, scatti l'idea, il nostro cervello è pronto ed ecco quella, no, quella soluzione ad un problema, la creatività si sprigiona. Benissimo, la parola creatività è la parola chiave, perché anche nel l'ambito, e io mi riporto sempre alla congiunzione tra quella che è le scienze motorie e le tecniche naturali, anche in ambito di medicina cinese o energetica, l'organo principale deputato al funzionamento generale muscolare è il fegato. Il fegato in questo caso è un organo che ha una duplice valenza, fisica e creativa. Allora, io maggiore è il movimento, la capacità sportiva, e più elevata è anche la mia capacità di intuizione e di visualizzazione creativa delle soluzioni. Visualizzazione è una parola assolutamente da segnarsi e da cercare di coltivare anche. Che cos'è la visualizzazione e come ci può aiutare nel superamento di ostacoli? La visualizzazione è quello che facciamo ogni giorno, da quando ci svegliamo a quando ci addormentiamo, e probabilmente anche di notte, perché ovviamente io per venire qui, molto felice di venire qui da voi a Radio 24, ho visualizzato senza saperlo il fatto che avrei dovuto prendere la macchina, avrei dovuto parcheggiare, avrei dovuto fare tante cose. Quindi ci sono migliaia di migliaia di migliaia di visualizzazioni quotidiane che noi non, fortunatamente a cui non diamo peso, se no sì, probabilmente sarebbe un po' troppo. La visualizzazione però nell'affrontare i problemi, che siano di lavoro, che siano sportivi, affettivi, piuttosto che relazionali, è quella capace di realizzare, cioè di aiutarci a rendere realtà ciò che è dapprima è solo un pensiero. Sì. Un pensiero è senz'altro la base, il mattone base di tutto quello che sarà poi il palazzo, la costruzione del nostro progetto. Prima parto da un pensiero e in questo pensiero, nel momento in cui io sento l'emozione che mi spinge a realizzare qualcosa, perché questo è un altro fattore importante, devo capire che non devo avere conflitti. L'assenza di conflitto è fondamentale. Ogni se ed ogni ma in un processo creativo è un rallentamento alla stessa realizzazione. È come se perdessimo una scarpa mentre stiamo correndo. Eh sì, allora in quel caso poi una volta che io ho definito il pensiero, quindi creato l'obiettivo, assenza di conflitto, scatta la visualizzazione, che è un supporto in più, perché di fianco alla visualizzazione avrò il concetto di merito. Io non posso visualizzare basta, ma devo darmi da fare nella vita. Non posso dire diventerò un campione di ciclismo e poi non andare in bici. Non posso dire farò l'imprenditore, sarò vincente, se poi tutto il giorno mi giro i pollici, come si suol dire. Certo. E la visualizzazione ha diverse tecniche, diverse modalità. Sicuramente non sto qui a spiegarle perché sono delle situazioni talmente profonde, complesse, sì, che sarebbe magari un pochino banalizzante il certo, tutto. Però è una tecnica che ci riporta a quello che dicevo all'inizio della trasmissione, reclutamento di onde alfa, sede della visualizzazione. Vorremmo parlare anche di energia, dell'energia in particolare che noi possiamo introdurre con la nostra alimentazione. E allora come potevamo non chiedere al dottor Filippo Ongaro di darci una mano? Dottor Ongaro, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottore, ci stiamo allenando, ma l'allenamento giova ma costa fatica, perché mentre i muscoli lavorano si bruciano calorie, si perdono liquidi, soprattutto i liquidi sono quelli che ci interessano in questo periodo dell'anno, perché con il caldo, molti ascoltatori mi stanno scrivendo, ma ci alleniamo anche se fa caldo, insomma con il caldo la sudorazione diventa particolarmente abbondante. Reintegrare, parola d'ordine, ma come, cosa e quando? Beh, diciamo subito che la cosa più importante è ovviamente l'acqua. Sì. E l'acqua può risolvere moltissime situazioni quando la sudorazione non è eccessiva, quando lo sforzo non è eccessivo, l'acqua è più che sufficiente. È importante ricordare che bisogna bere prima dell'attività fisica magari mezzo litro d'acqua a temperatura ambiente e poi continuare a bere durante l'attività fisica a piccoli sorsi ogni 20-30 minuti in modo da garantirsi questa idratazione continua. Certo ci sono poi delle situazioni come il caldo eccezionale di questi giorni o anche delle attività fisiche più prolungate, più intense in cui l'acqua può essere insufficiente. In questo caso ci sono delle bevande chiamiamole integratori fatti apposta per apportare la quantità di liquidi ma anche di sali minerali, a volte di zuccheri, che possono ripristinare queste scorte che si vanno esaurendo molto rapidamente. Ricordiamo che basta un 2% di perdita dei liquidi corporei per avere una sintomatologia importante di stanchezza, di confusione mentale, di debolezza. Quindi stiamo attenti, insomma, non esageriamo, e quando è necessario possiamo utilizzare delle bevande che, ricordiamo brevemente, sono quanto più ricche sono di sali minerali e di zuccheri, tanto più adatte sono al recupero più che all'utilizzo durante lo sforzo, perché più dense sono, più concentrate sono, più lento è il loro assorbimento. Ecco, queste sono le regole generali. Poi chiaramente ricordiamo anche di evitare di fare delle attività fisiche se non si è particolarmente allenati nelle ore più calde della giornata, ma questo, insomma, questo è il buon logico, senso, ecco. ci aiuta. Dottor Ongaro, noi avremo anche l'altro muscolo, il cervello, anche lui è impegnato in continui allenamenti. Abbiamo pochi minuti, uno scarso minutino per occuparci del cervello, ma lei è capace a darci un'indicazione rapida ed efficace, quindi mi fido di lei. Ma direi, Nicoletta, che per il cervello la cosa più importante è proprio evitare la disidratazione. Cioè, se dicevamo prima che basta un 2% per avere una sintomatologia davvero legata al cervello, di stanchezza e difficoltà di concentrazione, è chiaro che dobbiamo bere prima di sentire lo stimolo della sete. Assolutamente, questa è una buona cosa. Dottor Ongaro, mangia con me prossimamente? Beh, come dire di no, Nicoletta. Volentieri. Mangia con me, vi aspetta. Nuove cose, bolloni in pentola. Professor Tirelli, chi ha scelto come ascoltatore? Avrei scelto Patrizio per la sua grossa capacità di tenacia, grinta, che si associa bene alla sua professione di imprenditore.